alla 1, 2, 3, prova, alla prova, 1, 2, 3, prova, alla, alla, alla, 1, 2, 3, prova, alla, alla, 1, 2, 3. E beh, come Peppa, ma mi senti? Ah, stai uscendo male, mi. Ma in assembli, oh, tutta cracchiata, tutto craccheggiato, sì. Abbassa, abbassa, io non ti capisco. Non si capisce niente, Emanuele. Ma invece, guarda, io sono 27.255. Non se la capisce niente, ma la cosa è combinata. Ma a me bene mi senti. Passa un attimino e si chiamerà. Ah, mi senti? Aspetta, fa un passaggio. E adesso sì che ti sento, va. Io, no, io sono 27, 255, Emanuele. La frequenza è quella lì, io non ho toccato niente. E dove ti dica. Bene mi senta lì. E a chi adesso? Aspetta, ma è poco fa, non si capisce niente. Ti lascio un attimino la portata, vedi se c'è rumore. Rumore c'è? No, perfetto. Allora va bene, no? Allora va bene, certo. Va bene. Oh, io sto con un vatto, Un vatto sono. Ehi, ah, va bene, Emanuele. Come? Non ho toccato nemmeno io nulla, Manuele. Era io a 23, ecco cos'è. Però mi blocca più lo snicker qua. Perché adesso non ci arrivi allo snicker, capito? Adesso ha attenuato, capito? E forse ha passato forte. Sei terribile. e aiuta. Capitano, ripeto. Ma che sei, Giovanni? Eia! Sono Bruno, sto provando un antennino, se non ricordo del vecchio colo, di quello giallo. Vabbè, io, c'è 9.30 qua, 9.30, radio 5. Quarremme, cioè, ma anch'io ne ho 7 di quarremme, ti puoi immaginare? Anch'io c'ho molto quarremme, però c'è il quarremme, capito? Per cui la radio è buonissima, e la radio è buona, fortissima, e 5 è perfetta, e purtroppo il quarremme deve regolare con lo squetch, capito? Se vuoi abbassare il rumore del quarremme, devi abbassare appena appena lo squetch. Però, ripeto, abbassando lo squetch, magari quelli, i segnali lontani non li senti, senti quelli vicino. Ma comunque guarda che il quarantino sembra così, ma fa bene, perlomeno io ti sento più bene, magari bisogna anche fare le prove con persone più lontano, capito? Noi siamo vicini, magari è per quello che arriva alle 9.20 qua, capito? La radio è perfetta, però arriva bene qua, vuol dire che va bene quel finito. Ma in casa, infatti, in casa magari a mettere sulla ringhiera o sulla finestra e bisogna trovare l'antenna giusta, capito? Non so se ti viene bene a mettere la boomera sul balcone, capito? Perché io riesco a sentire a Marino però quando sono andato l'altro della macchina, la salamita qui si è fatto tutto quello che è. Secondo magari secondo le zone anche, per esempio. A Marino tu lo senti basso così, Sì, proprio proprio sentato. L'altro giorno sono andato con la macchina, proprio con la veloce, ho comprato la ricolante in turbo che ha studiato, mi ero confrontato con la macchina e diventa molto bene. Però sento che va sottata e sentivo bene anche la linea, sentivo che mi piacerava un po' più. Già me la vedi e ci faccio. L'avevo comprata da frullare certo, la macchina va bene, essendo in macchina quella va benissimo, però per casa magari ci vuole un'antenna più lunga, capito? Già ci sono, bisogna trovare la posizione giusta per poter andare bene, perché certe volte magari c'è la zona che è zona d'ombra e non passi, capito? Purtroppo è così. Invece magari si è aperta la zona, allora esce e si sentono ugualmente, capito? E bene pure. Quella è una zona che è qua in notte, avevo di provincia con la parte libera, parte di copiare, un'antenna buona, anche pure, ma Aspetta! Non so se deve fare qualcosa, mi passare adesso dovrò aspettare qualcosa che abbiamo dato, ma cioè, magari qualche valvolare, qualche valvolare, qualche quelli prima gli apparecchi funzionano sempre bene, che non si guardano mai. Io ho le cose, le icone di 3000 sì, ma sa quanti anni ce l'ho? 35 anni ce l'ho, icone di 3000 sì, che ce l'ho in campagna. Ed è sempre. E qua c'ho la faiette, anche quello ce l'ho l'apparecchio. Ma funzionano bene, quelli di prima funzionano sempre bene, non si guastano mai. Questi di adesso sono tutti delicati, basta appena appena un coso che si guastano ed è un macello a ripararlo, capito? Ma quello che sei tu va bene l'apparecchio, certo. Grazie, quanto tempo ce l'hai con l'apparecchio? Ma l'ho dato una luce così, da quel giorno, per trovare. Io in garage dovrei avere l'H23, perché l'ho usato una decina di anni fa, ero entrato così, nella Paiette, e qualcosa ce l'ho, ma sono andato là, l'ho fatto insieme a me. Poi dovrei avere il 5024, il portale, quello è stato quando l'ho conservato, magari ho andato là, diciamo che per un attimo magari potrei arrangiarmi, però c'è un caso, se decido di fare la stazione, allora non lo posso fare una qualità così semplice, anche perché quello che avevo io avevo questo vittore molto bello, mi sentivo una cosa, quando avevo fatto la ricerca, non settore, fare il fatto, ma non c'è questo scritto, non c'è la consiglia a nessuno, non c'è la facoltà da qua, 40 anni e sarei tornato. Vabbè, aspetta. Vabbè, sì. Con una mangiata, però non farò un po' fino a quattro anni, che questo è, magari più mangiata, adesso si va per il centro professionale civile, però rischio di buttare via soldi. Certo, se si trovasse questi, come si chiamavano, con gli affari, a quelli si porta a dire, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non ne ha avuto l'FR50B, grazie, l'FRC6, la linea somma, io ho avuto anche la linea somma, tutto valvolare, grazie. Ho avuto anche il geloso, ho avuto anche la trio, e tutto valvolare, quindi con ogni valvola soffia più mano di rubugno, gatta, per dirti no. E ne ha avuto parecchi, per cui con l'FR50 della Sommer che cazzo qui li avevamo fatto lui, era un cazzo, e il collegamento l'ho fatto quell'apparecchio, cazzo, era, non c'è un apparecchio che abbia fatto il collegamento come quello, ma ce n'erano, e poi altri tempi, vai, era altri tempi, perché adesso c'è tutta questa roba moderna, e per cui riesce anche a eliminare un po' il fracasso che c'è, capito? Mentre quei vecchi sono sempre quel rimasti sono, capito? E non c'hanno altri motori, non c'hanno niente. E quel REM c'è e ci sta, capito? Mentre che il modello invece c'è qualche attuatore e un po' se li elimina, capito? E un'altra cosa era là. Prima l'apparecchio era un'altra malattia. Io per esempio se toccai i 6 canali, gatto, se lo vedi nuovo, nuovo, se lo vedi funzionando con l'antenna sua, se lo vedi funzionando non hai idea, capito? E l'HB23, quello che c'hai tu, anche quello è un apparecchio come si deve. Allora, parlando del 6 canale della toccata, costruivano di gruppo, i dati parlo tanto parlare, con 500.000 faccio parlare con l'Algeria, non c'era nessuno, non c'era terreno, non c'era niente. Poi chiaramente con tutte le bombardate, con le apparecchiature, chiaro, che ho visto un caso, si va con il gambo, per andare, per ricordo, l'angoletrone, quando usava il gambo, gli buttava la porta al suo vicino di casa, perché lo pischiva dentro il citofono e dallo scale, era potenza, a parte in televisione se lo andava così. Oggi mi auguro che queste televisioni siano diverse, perché con la finita che sto usando io adesso non vorrei dare fastidio a questi apparati. Infatti, perché se vuoi lasciare che abbia suonato che c'è un amico che sta venendo. Dai. Ci sentiamo al prossimo magari, dai, scusa, purtroppo devo chiudere per forza. Dai, ci sentiamo, un coso tranquillo, dai, va bene la radio va bene, per cui cerca di mettere, di trovare un'antenna per mettere sul balcone, sei a posto. Ok, ci sentiamo, dai, buon proseguimento. Okay. Attenzione, signor Bacchisio! Bacchisio, faccio il passeggero. Meglio Baedo. Buonasera, signor Store, buonasera. Buonasera anche a lei, signor Gio Maria. Come se la fa, come se la fa? Come ti vuoi cambia? Come te sempre, ogni anno come te sempre. Non cambia mai, no, sempre lo stesso. E oggi io la ciamba di bannuta. Vai a fare la spesa, quando dormi vai a prendere i bambini a scuola. Che buona magna ed è tutto lo stesso. Cazzo, non fai figliori minori, cazzo, ti tocca andare a pagare i figliori degli altri. Va bene, mi sto obbligando. Purtroppo, cosa vuoi fare? È così la giornata, giorno per giorno. Anche quello bisogna fare, almeno ti mantieni in movimento sempre. Non è che ti addormenti, capito? Per cui è sempre in movimento, già fa bene questa salute quella lì. Infatti, piano piano è sempre andando, ed è così. Va bene così sto. Piano piano, chi va piano va a stare fa lontano. Noi di lui sì. Sì. Più piano vai e più lontano arrivi. Vediamo un po', signor Bacchisio, avanti. No, ancora presto per lui. Ancora presto per lui magari, va. Sei in casa abusato. Sarà chi vive? Chissà se l'ha atteso il burro. Vabbè. Si è aperta la porta se vuole entrare. Per cui non c'è problema, va. Marino. Non si sente bene, ha qualche cappotto, e si va avanti sempre, bisogna andare sempre avanti sto. Se no, si ferma, è perduto. Poco faccio la Emanuele, è in Parigi, bisogna aspettare un attimo. Perché a mezz'ora più dice che è da mangiare presto. Emanuele! Ma via, dice sempre che c'è da mangiare e basta, che si fa? Va bene, abbia da Edo vai a sacrificio. Infatti, via da Edo. Vabbè, sarà così. Siamo così, sempre così. Tanto è muove. Io sto andando sempre bene, no? Cos'è Gio Marì? Ecco, il mio sta andando sempre bene, no? Ti ascolto, vuol dire che sta andando bene, se no te l'avrei detto. Meglio di sto. 3-10, 3-10. Infatti è così. Vabbè, se no, pazienza, andiamo bene. Allora, attenzione signor Bacchisio, se ci sei dai un colpo. Da chi fa, Gio Marì? Deve essere impegnato. Deve essere impegnato, so. Però prima dagli occhi già entro, va. Ormai lo sappiamo che almeno per i saluti un po' vestire, tutto l'ultimo giusto, però già entro, va. E già va bene, almeno per il palco, e dobbiamo tranquilli. Vabbè, sarà così, sarà così, boh. Caspitina. Tu lo sapevi sempre di cantare, c'è un volume, l'amore che si aspetta bene, io sono mezzo scordo, Provendi vero, ma non anda. Non sa che cosa, questa spesa già lo ho controllato a poco, cazzo, stava a sera sono portato la città caduta, prima lo portato, dare il troletto, la mappa tra di noi, dare il troletto, prima lo portato, a voi dopo, oh, poco fa c'era un altro aiuto, non mi ricordo che era l'attivo che andava via a parte le morte, era stato in questo video sta piattando là, stava presso una magnifica da pisare e sta portando la macchina, calmati, dammi il cubo a prendere. Aspetta Giovanni, chi è che vuole entrare? Con chi tu è? Vabbè, avevi tanto gozzo di entrare sopra all'altri. Ah, ma non vuoi entrare. Cari daiga, c'è niente che si attacca sopra all'altri e da voi non entra. Magari, o non senti a me magari se sono a te, e forse magari adesso qualche cosa che avevo parlato, che stavo parlando io magari non mi sentivo a me. Ci fa se ne intendi, sopra, che ti hanno sopramodulato, e da voi non entra, che te sta niente, che boh, non lo posso vedere quando fa se ne cucci. Io ho fatto due fatti, è così, Ci fa se ne intendi, da voi non entra né manco. Boh, andiamo via, andiamo. Vuol dire che posso soltanto la portata per essere una cosa, ma non devo parlare di me. Ah, mi ha coperto così. Sta tappato, perché la voce è voce, era. Boh, entra dopo chi tu, Ah, già cosa vuol dire? Nella parola mia. Vabbè. Se lo fa. Ma la prossima che entra non rispondo male. Lascialo fare, ragazzi. Già si tratta di più. Vabbè, dai, fermo così, fermo. Arruele, sì. Allora c'è qualche filo che tocca o non tocca? Ma va, dimmi tutto, la casa non sarà, bruno. Non lo so. Quindi può andare, ma sai, non mi piace, non si riesce a fare. Sei. Quindi tocca a mano, manca la corretta. Se mi presta qui il cantabicchia prima la fine si può pure un libro, un tocco pure un libro e si scusa perché la stai assorbendo tu la corrente, ecco cosa è, metti il dito la mano tu e assorbi tu invece che il cacciavite. Beh, chiaro, infatti il cantabicchia per controllare la fase della giustizia, però non mi sembra, ma io la corrente manca. Dimmi una cosa, cosa stai adoperando? Qualche ciabatta? Ah? Ciabatta stai adoperando? Ciabatta, no. Sì, c'è una ciabatta con l'interruttore sotto la presa. C'ha due prese, il fianco e una centrale, quella c'ho. Ho capito. Sicuramente la ciabatta che ti sta dando il coso. Che non c'ha massa, non c'ha. Ecco cosa è. Che non c'ha massa e non assorbe. C'è quello. Ma io sa cosa faccio. Domani vado e me ne compro un'altra per avere un coso. Perché quello è precisa, no? Perché una due laterale e una centrale tonda con tre attacchi, una tonda di fronte e due laterali. No, Gian Marì, dovresti fare una cosa. L'alimentatore, attaccarlo alla presa direttamente al muro e vedere, mettere il cacciavite a vedere se c'è ancora corrente. Domani faccio di tutto. Domani faccio di tutto. Direttamente l'alimentatore, attacca direttamente alla fine, alla presa di muro. E la ciabatta, poi tratta quella lì. Quella è la ciabatta, però è unica, capito? Si attacca al mobile con due dischi, capito? No, io ce n'avevo una così, di ciabatta, che mi dava corrente sull'alimentatore. Allora l'ho presa, l'ho cambiata. La giubilata era giambanda, prima ho provato con la presa a muro. Ha visto che non me ne dà via del gozu, che era normale. Allora ho cambiato la ciabatta, ne ho messo un'altra e non me lo faceva. Ecco cos'è. Per quello ti sto dicendo, prima prova l'alimentatore attaccato alla presa a muro a vedere. Però attaccandoci l'apparato e anche all'alimentatore. Okay. E domani faccio quel lavoro. Un anno me l'ha fatta qua dove ce l'avevo, che avevo la ciabatta a 4 attacchi e avevo la corrente stessa sulla testa. Poi il vestito, le vestite erano lo stesso e magari ce n'era qualcuna che non funzionava bene. L'ho ciabatta dal giorno non me l'ha toccato la corrente. Farò domani, va, ecco, come è tutto, proprio direttamente all'alimentatore alla corrente dell'apparecchio, avere un po' di assistenza, capito? Per trarsi da quella ciabatta, ci sono tre attacche, tutte e tre sono attaccate a tre alimentatori, no? E sono tutte e tre occupate le ho trovato una a uno, ma lo so che già, e può essere qualcuno di qualche presa che ammazza, capito? Infatti, aspetta che volevano entrare qualcuno, avanti che vuole entrare. Attenzione, chi voleva entrare? Era giù che i gassi, boh, e chi vi ha fatto di gozo, però non vuole entrare. Pile di viraghi du paesi. Andate. Avanti Gio Marì. Tu cosa dice Mari muri in cima ci entra. Ehi catta, un altro mi Gio Marì. Tiro il telefono e ce ne ha da buio, ti rispondi e non ti chiama. Non mi chiamato, va. Rimani da Gio Giamato. Non so che sei drummido, sei rimpedi, sei dritto, sei cucato. Non mi chiamato dopo. ma non ti arrabbia con chi sa oggi. Ieri ti ho chiamato al telefono, ma già ma dai, io penso che ti sia rimasta. Boh, siccome ricevo talmente tante chiamate, vabbè tante, oddio no, però ne ricevo chiamate, ma la tua non mi è arrivata. Boh, insomma ti ho chiamato, che l'altra volta non mi hai chiamato, ti ho giù richiamato, ma mi ha risposto che non potevi venire. Scusa, se la mia amica ti ha chiamato, Dorra, è un po' sempre così, vuol dire che mi chiama Gio Maria, Mari, non lo sento, poi lo richiamo. Sì, vabbè. No, era per vedere se ci avevi due RAM da 2 giga DDR2 per provare il computer portatile per essere da lì. E che cosa c'ha? Dillo a me e poi ti dico se la RAM o no, è lento No, è che accende e dopo 2 secondi si spegne. Ah certo, dopo ma si spegne il computer e si spegne il monitor? No, lo accendo, non si accende neanche il monitor. Lo accendo 2 secondi, tac, scatta e si spegne. Cos'è, un HP? Un HP. E Pavilion sì. Ma HP non abiti? Perché? All'ampazzi ruglioso. Non lo mettono da RAM, no. La RAM mi serve solo per la vidiata, ecco, diciamo così, dai. Se c'è una RAM magari che è in corto o magari sono tutte due bruciate non ti fa vedere il video, capito, nel monitor. Non c'entra niente la RAM, lì è un problema di o c'è la ventola sporca, bisogna smontarla e pulirlo, che magari tu come la accendi va in protezione e si spegne. Non lo so. Oppure, comunque il difetto lo fa, è un difetto di HP quello, Ciao Gussi, andemmo via, andemmo. Vabbè, io me ne ho ordinato due. Le provo, se non è cosa, vuol dire che sono una base, Perché pulita gliel'ho pulita, la ventola gira. La ventola gira, si sente girare quando la accendi. Però fa lo scatto, tac, e si spegne. Ehi, ho il difetto della capi palpiti, ho capito. Avanti, Gio Mari. Scusate, dai, io vado a cenare, che tra un po' vado a prendermi il tram, ma dopo, cioè, devo mangiare anche il cane. Capisco, lo so. Ah? Cos'è, Gianmarì? Che le ventoline, gli altri trovano comunque. Sì, ma vado provato a di Montannino. Fa pulirlo per Trento, un cavolo, ci sono riuscito a aprirlo tutto. Ma che manda che sta aprendo? Signor, sarà manna 5 centimetri. Ma è tutto un pezzo che va però. Vero Luca, avviatosi, andiamo bene. Vuol dire che siamo in due. Ehi, se no, pazienza. Non sa c'è cosa, me l'ha fatto parecchie volte così, mi avvisava, puliva la ventola e funzionava. Ma può essere che a vostra come mezzo partito, capisco bene. Infatti, vabbè, se funziona funziona, se no pazienza. Se no pazienza. Va bene, adesso vai, io chiudo che mi stanno chiamando. Ci aspettiamo magari domani se ci sto fabbroso. Ok, sto saluto a Battista se riesce, Barista, vai. Chiudo che okay. Ciao. Ok, ciao Gio Mari. Ci risentiamo domani, ok. Alle prossime. Attenzione signor Bacchisio. Attenzione signor Bacchisio. Attenzione signor Bacchisio. Luca! Fiore! Anche Fiorellino, sì! Oh, buongiorno, signore! Sì, buonasera! Ma credo che tu sei per stasera fa vedere. Non ti si capisce nulla così. Prova a allontanare il microfono appena appena da vicino la bocca. No, perché si sente oh, ha comprendito, io ti comprendo, quindi. Adesso va bene. E che tu bruci così aereo, che tu sono? Tutto a posto, tutto sotto controllo, come adesso? Avanti, beh, mi piace così. Ma non innamorati, barone. Andiamo, beh, andiamo, bubu. Ho finito di cucinare un po' di maestrale, patate le fritte e per le salate, anche io ci si mangia. Senti, arrazza di dieta, chi è chissà? Dieta? Ui, ti sto dicendo che non c'è neanche più nella moto a carrozzella. Devo togliere gli sportelli. E io ti posso credere. Io ti posso credere, certo, che andiamo e andiamo. Ok, dieta. Dottor, anzi, sono andato in farmacia e mi sono pesato, la bilancia mi ha detto si pega di salire una volta. T'ha detto? Pensa un po' come la bilancia si ne ha bizzata. Pure la bilancia ce ne ha bizzata, andiamo, andiamo, vai, vai, ehi, un po' di camminare, vai, fare un po' di roba sportiva. Che roba sportiva, ho detto, tutto salato, la sportiva, il bianco a fare roba sportiva. Cazzo, ti davo una mascherina in alto. Come che cazzo fa a camminare una mascherina in alto che non ve la posso manca respirare? Ma io ogni giorno mi porto una camminata da manna con Grugani, mascherina me la tengo sotto al mento e cammino. Ma se ti trovano che non ce l'hai tutto addosso nel naso, ti mettono 400-500 euro di multa, non è che sul telegiornale. Ehi, alla gente, però tu vieni a farmi una multa se non c'è nessuno vicino a me. Non c'è da niente, non c'è da nulla, si deve portare perché è proprio l'aria inquinata, l'ha detto su Pamboccia. No, dove c'è assemblamento allora devi usare la mascherina, però se non c'è nessuno non ne devi usare mascherina, te la abbassi e cammini. Ogni tanto mi vuoi dare una nuova, per carità, non si butta più di una massa, non si capisce più niente, Tore, lascia perdere, non si comprende più nulla, ognuno va alla legge cruda, va alla legge cruda. Io sto alle leggi che ho visto, che ho sentito, che mi hanno detto se non c'è nessuno la mascherina se la abbassa e continua a camminare, se trova gente se la solleva. Ma sai vivo? Non lo so, a me il bari non è così, perché anche quando c'è gente che sta fumando non devono fumare perché cazzo devono tenere la mascherina, io non li comprendo più tutto, non li comprendo proprio perché non fumo io, non mi interessa, ma ognuno, ogni giorno che passa ne dicono una, non si capisce più nulla. No, i vigili oggi li ho trovati e non mi hanno detto un bel niente, con la mascherina abbassata sotto il mento, a che non verrà nessuno. Cosa? Se non la chi trovi ti rompono le balle, perché così? Guarda, erano due, veniva una femmina e un maschio, ma l'ha mai dato? Gli ho alzato la mano, arrivederci, e sempre andendo. E non c'era un'anima viva in giro, dove passo io. Ma Marino non sentisci, cosa ne so, lo so perdere queste cose perché solo a pensarci io sto, ti vengono i brividi, ti vengono, perché ogni giorno rialzano con la televisione, su Vigliorina, per carità, solo di riso non fa vita, ma non si la pigliano in luce, ti anche. non è stato più guardato il telegiornale, anche solo lì sulla vita. Io invece li trovo, ogni giorno li trovo, quindi il coso è, se c'è gente te la sollevi, se non trovi nessuno cammini sempre e stai lì. Io passo vicino all'entrata per entrare alle piscine, lì c'è gente, ma sollevo e vado avanti. Dove non c'è nessuno me la abbasso. A sai Bibù? Non lo so, perché ogni giorno che passa mi dicono sempre una diversa. Ogni anno che passa è sempre una diversa. Ma si compra in due punta. Cala di sicura, cala di sicura. Guarda, io ti dico una cosa, che da questo cavolo di merda che c'è per aria non ne siamo più fuori. Ma che non ne siamo più fuori. Sì, la fatti dimmi. Io voto sempre così forte. Se c'è assemblamento, mi allontano dall'altri, una mascherina, cammina davanti, se non venisci non mi rabbascio. E non mi dite né nulla, Eddie. Un preso, è forse così. Se no, si rabbia nei due paesi. Ai hanno farà passare tutto, sono l'anno che viene. Non lo so, faccio quello che voglio. Per me, ho cotto, ho cruda. A me manco male male, me ne passa. Forse ne questi che voglio. Marchisio, non si sei visto? È due giorni che non lo sento, domani lo provo a chiamare a vedere cosa gli è successo. Io sono andato a vedere il dottore, l'altro giorno quando l'abbiamo sentito, io sono andato a vedere il dottore, non si va a fare i controlli. E dopo che ha fatto le lastre doveva venire il medico ortopedico. Oh, no, non ne so nulla. È da ieri che non entra. E allora non sta bene, allora tutto non sta bene. Cazzo, se non entra vuol dire non sta bene veramente, per carità. E infatti, boh, non lo so, domani lo provo a chiamare a vedere. Oh, se mi rispondiedo, se mi rispondiera Mugliri. Ti trovo una camera a vedere, perché io non ho più visto in circolazione. Sono passato anche stamattina vicino al garage, tutto salvato. Infatti è così, e vabbè, guardo a vedere. E un attimo, Tasso Ghinoghi.